Eccoci qua, sono le 21.05 dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Inizia prove tecniche di trasmissione. Consueto appuntamento del mercoledì sera. In onda sino alle 22.30, allorché ci sarà poi 25 o'clock, che andrà a concludere questo 8 febbraio del 2017. 0649 1750 al contatto telefonico. Il sito internet, anche per lo streaming, è già abbastanza frequentato, è www.ondarossa.info. La radio ha un indirizzo di posta elettronica, ondarossa@ondarossa.info, e questo spazio ha una pagina Facebook dove si potranno trovare sin da domani anche il podcast e la playlist di questa sera insieme a tutti gli altri del passato. E naturalmente in una pagina Facebook del sottoscritto DJ Elettrodo. Si va a salutare Alessandra qui da Roma, Rodrigo da Londra, Like Awake da Roma, Raffaele Pezzella da Napoli, Fabio FK Drone anche lui da Londra, Giovanni Lisi da Bari. Un saluto a Massimiliano, Gabriel da Londra. E buon Antonio, sempre presente da Firenze, anche se è impegnato, ma lo abbracciamo. Cominciamo con Gerstein, questo progetto ormai abbastanza datato, ma ancora attuale. Capitanato da Mauristo Pustianaz, e quindi un progetto storico a questo punto, di Mauristo Pustianaz da Torino. Di Gerstein abbiamo questa compilation dal nome Lie in Her Grave. Estraiamo Morbius Gravis e WB. Intanto noto con piacere che, diciamo, la platea si sta allargando e quindi andiamo a salutare Elvi da Mantova, Mauro qui da Roma, Massimiliano non mi ricordo da dove ci sta ascoltando, forse dalla Toscana, Fulvio qui da Roma, Antonella dalla Sicilia, non so che città, comunque la salutiamo. Tenente Dan qui da Roma, Giulia qui da Roma. Maurizio Pustinaz e i suoi Gernstein in questi due momenti abbastanza diversi dal punto di vista emotivo, la prima traccia quasi death ambient e la seconda un pianismo direi abbastanza malinconico ed inquieto allo stesso tempo, un pianismo notturno questa WB. Gernstein, 30 anni di onoratissima carriera, un progetto di nicchia ma che ha dato molto significato e lo dà tuttora. Teniamo conto che Maurizio Pustinaz è impegnato anche in un'altra avventura dal nome Artico Culto. Nel salutare Raffaele Pezzella ci inoltriamo nel Portogallo più sotterraneo attraverso l'ennesima compilation ideata da Pezzella, il Portugal Experimental Underground System Survey. Questa sera ci ascoltiamo Vittor Joachim con Forgotten Voices e poi Quattro Connection con The Absolute Truth. Dal Portogallo. 4 Connection, altro progetto dalla medesima compilation. Intanto si va a salutare una rappresentanza toscana con Simona e il buon Emiliano Petrini, Globo Oscuro, del quale ascolteremo a brevissimo un qualcosina. Ringraziamo Raffaele per la spiegazione e la citazione proprio di Victor Joachim, molto lunga e esaustiva. Peraltro consiglio a chi ci sta ascoltando di andare un po' a visitare la Nespless Sounds Group, gruppo di appassionati di musica sperimentale, dove si possono conoscere ed apprezzare molte molte cose interessanti. Ancora materiale dall'approccio quasi trance e mantrico. 4 Connection. Sí. Thank you. Un ottimo passaggio, due ottimi passaggi da Portugal Experimental Underground System Survey. Nello specifico questa 4 Connection, una delle, dei passaggi più interessanti di questa compilation di Raffaele Pezzella. Ringraziamo dunque Carla Santana, e quindi si evince che questo è un progetto al femminile, una artista da tenere assolutamente sotto controllo, con tutte le sue manipolazioni vocali, tutto il suo, la sua struttura armonica molto sperimentale, che vedo sta suscitando parecchio entusiasmo in tutti quelli che stanno ascoltando questa trasmissione di oggi 8 febbraio 2017. Saluto anche Riccardo da Taranto. Questa compilation del Portogallo particolarmente interessante, una scena a me abbastanza ignota, ma grazie a Raffaele Pezzella sto scoprendo delle cose molto interessanti che ho, e che sono molto contento di condividere con voi, con quelli che stanno ascoltando in questo momento. Effettivamente è un bel trip, è stata questa traccia di Carla Santana. E rimaniamo più o meno su queste sonorità. Abbiamo salutato prima Emiliano Pietrini e andiamo un po' ad ascoltarci il suo progetto, il suo ottimo progetto qui proveniente dall'Italia, esattamente da Livorno, dal nome Globo Oscuro, qui in combutta con Brage Saden, un artista spagnolo, ultimo lavoro dal nome Imperfectus Ellipsis. Quattro tracce molto particolari, cominciamo con ascoltare e conoscere questo lavoro attraverso la prima traccia, Fertilis Oculorum. Ammetto di avere un debole per Globo Oscuro e per Emiliano Pietrini e mi fa piacere che sia molto apprezzato, sia stato apprezzato in questi minuti. Sia stata apprezzata questa Fertilis Ocolorum, la traccia di apertura di questo Imperfectus Ellipsis, ultimo lavoro di Globo Oscuro in combutta con Brage Sidan. Quest'ultimo un misteriosissimo musicista spagnolo, Ángel Sánchez Cervera, con il quale ultimamente il buon Emiliano si muove sovente in coppia. Credo che con lui abbia stampato 3-4 lavori e ci tengo anche a dire che attraverso il suo sito si può arrivare a tutta la discografia free download, il che gli fa anche onore oltretutto. Salutiamo anche Mario Lino Stancati, altra eminenza grigia di questi spazi del mercoledì sera, un saluto a lui. Le avanguardie sono presenti, le avanguardie del Novecento anche, e per quello intendo i vari Stockhausen, John Cale, ma anche Nars with Wound. Forse sono questi gli elementi che possono far, che possono arrivare nelle nostre sinapsi ascoltando Globo Oscuro, del quale a questo punto credo che inizierò a fare anche una retrospettiva, già che il materiale che ha stampato è notevole e importante. Un saluto dunque ad Emiliano Pietrini da Livorno e al suo Globo Oscuro. Adesso invece ce ne andiamo in Germania e qui le atmosfere si fanno più etniche e tribali. Sto parlando di Siamgdown, personaggio che ha emulato le gesta del grande Muslinghaus, purtroppo scomparso tanti anni fa. E il suo ultimo lavoro si chiama Reborn, un lavoro che esce come tutti quelli, gli ultimi fatti da Siamgda, attraverso l'Ant Zen. Ci ascoltiamo Bardot e We Are a Miracle. Intanto ci informano che alla stazione Termini c'è un movimento notevole di volanti, non è che sia proprio una novità, ma un po' più del solito, ci dicono, così giusto per informazione. Lui è Siamda. veramente interessante, intrigante questo Siamgda di Mark Fischer, artista tedesco con vecchie peregrinazioni nell'Asia. Amore per tabla, se si sente. Riesce egregiamente ad unire indubbiamente rumorismo, elettronica, ma anche per l'appunto queste note pesantemente etniche, arabe e asiatiche. Si chiama Reborn, ultimo lavoro che esce naturalmente per la Ant Zen. C'è molto Musilinghouse indubbiamente, ma io ammetto di avere anche un refuso, cioè quando ascolto lui rivado indietro di 30 anni e mi ricorda anche Brian Eno e David Byrne di My Life is a Bunch of Ghosts, un mitico album che univa allora la New Wave e le suggestioni etniche. Ricordo David Byrne dei Talking Heads. Naturalmente il tutto è traslato, supportato, trasformato da una sensibilità elettronica odierna. Un buon lavoro questo di Mark Fischer. Collaborazione anche tra gli altri con Eric Van Bontergem di Monolith. Lasciamo Siamgda, andiamo in Nord Europa, esattamente in Finlandia, e lo facciamo con Pan Sonic. Panasonic ufficialmente sciolti, ma di tanto in tanto fanno uscire delle cose molto interessanti, non ultimo questo Atom Impalo, una colonna sonora di un omonimo film che tratta di energie nucleari, di centrali nucleari, diviso in 12 movimenti che portano tutti questo nome, e quindi questo è il nono movimento, Atom Impalo, Panasonic.